Questione di tatto. Leggo nella Bibbia in Proverbi 25:20. Cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo o mettere aceto sulla soda. Proverbi 25:11. Le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. In Ecclesiaste capitolo 3 versetti 1 e 4 leggiamo: per tutto c'è il suo tempo. Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. E in Romani 12:15, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Vi è mai capitato di sentirvi male perché vi siete resi conto di essere stati, anche se in maniera involontaria, inopportuni? È proprio una brutta sensazione, vero? Non è sempre facile valutare le situazioni che ci troviamo davanti e può capitare di agire con una certa superficialità. A volte pensiamo di aiutare qualcuno che è giù di morale, dicendogli qualcosa di divertente o proponendogli un'attività che possa portare distrazione. Ma poi ci accorgiamo che non era ciò di cui l'altro aveva davvero bisogno e allora vorremmo sprofondare. I versi che abbiamo letto ci ricordano che c'è un tempo per ogni cosa e occorre capire bene il tempo in cui ci troviamo. Dobbiamo saperci rallegrare con coloro che sono allegri e piangere con quelli che piangono. Dobbiamo saper dire le parole opportune per ogni occasione. Il cuore dolente non ha bisogno delle nostre canzoni, ma ha bisogno di sapere che noi siamo presenti, pronti a soffrire con chi soffre. Quando una persona sta passando un brutto momento, ha bisogno del giusto tempo affinché le ferite comincino a rimarginarsi. Talvolta, invece di cercare di distrarre l'altro, sarebbe più opportuno stargli accanto, magari anche in silenzio. Potrebbe essere necessario piangere con chi piange piuttosto che volerlo far ridere a tutti i costi. Verrà anche il tempo del riso, ma occorre avere tatto e aspettare il tempo opportuno. Il termine tradotto con soda nel primo verso che abbiamo letto è il natron, carbonato idrato di sodio, una sostanza che si utilizzava molto nell'antico Egitto anche per l'imbalsamazione, oltre che per altri usi. Se si fosse mischiato con l'aceto, si sarebbe ottenuta una reazione che ne avrebbe compromesso la sua funzionalità. Mettere aceto sulla soda è proprio paragonato a cantare delle canzoni ad un cuore dolente. Non serve a nulla, non aiuta chi soffre. Una delle cose che ho apprezzato di più nella mia vita quando ho avuto momenti di sconforto è stato proprio avere delle persone vicino che non hanno cercato di minimizzare il mio problema, né hanno mostrato di compatirmi solo a parole. Io non ricordo cosa mi abbiano detto in quei momenti e probabilmente qualunque cosa avessero detto non sarebbe servita a lenire il mio dolore, ma mi ricordo che c'erano, erano presenti. Che Dio mi aiuti ad avere il giusto tatto per capire le situazioni e mi aiuti a non essere solo uno che vuole distrarre dalla sofferenza, ma che vuole soffrire con chi soffre, per poi tornare a sorridere insieme al tempo opportuno.